Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo. Niente di più. Non è che siccome l'ha detto Berlusconi è sbagliato. Ecco, questa è la cultura dell'odio verso il nemico, che io non ho mai capito, non ho mai apprezzato. Non dipende da chi la dice, una cosa è giusta o sbagliata, anche se la dice Berlusconi, Diaco, Renzi, Giulio, tutti. Ci servono le ferrovie veramente. Il ponte è un pezzettino, sono 3 chilometri. A che cosa servirebbe 3 chilometri nel deserto? She almost drive me crazy. I got a girl named Daisy. She almost drive me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she's doing to me. La prima cosa che ho guardato è che c'era il sole, perché ho pensato che aveva preso un colpo di sole, no? E ho visto, no, sai, a 6 a settembre, no, lo dico sinceramente. Iniziamo da questa idea del ponte, le piace, no? È un omaggio per gli 80 anni al cavalier Berlusconi, e questo dimostra la gentilezza d'animo del Presidente del Consiglio. D'Alema, fermati, non parlare più del ponte, perché poi rischiamo che gli italiani poi inizino a dire: no, se l'ha detto D'Alema, allora quasi quasi il ponte. Occhio, eh? Occhio, eh? Ma state tranquilli, cari ascoltatori, 2 giorni, 3 al massimo, anche noi oggi ne parleremo, avremo ospite il sindaco di Messina, avremo ospite il sindaco di Reggio Calabria, faremo il ponte, insomma, e poi non se ne parlerà più, fino al prossimo giro, eh? Allora, Luca ci scrive che a Perugia è ancora buio. Speriamo che i tuoi ospiti siano illuminanti, ragazzi. Ma sicuramente è così, sempre, sempre. Saluto anche Luciano da Guidonia. Oggi mi chiedono, oggi cosa sei, renziano o grillino? Lo so, caro Roberto, cosa vuoi che dica? Ormai ho deciso questo: a chi mi dà del renziano, a chi mi dà dell'antirenziano, a chi mi dà del grillino, chi del fascista, chi del leghista. Ho detto che scambierò i vostri numeri di telefono tra di voi, vi darò i numeri di telefono, vi sentirete, fate una bella conference call, fate un voto, vi riunite, decidete, mi dite esattamente chi sono, cosa sono, per chi voto, per cosa penso, dove vado, da dove veniamo, perché. Domande filosofiche importanti. Ma chi se ne frega! Ecco, bravo, bravo! Bravi Peter Bescapè in regia, il nostro alpino, e Lorenzo Nespoli in redazione. Ma chi se ne frega! Niente, la gente se non ti cataloga, gli italiani se non... Sono milanista, ecco, tengo al Milan e alla Pro Sesto. Tanto basta. Su tutto il resto ho forti dubbi, fortissimi dubbi. Però, ragazzi, intanto voglio salutare il nostro direttore di oggi, Umberto Brindani. Buongiorno. Buongiorno Alessandro. Come va? Bene, sono contento. Sono contento che tu abbia dubbi, perché anch'io ne ho su tutto. Io sono dubbioso, io già mi sveglio e penso, ma vado a lavorare oggi o no? Già, questo è il primo dubbio. E poi a seguire. Però, caro Umberto, oggi c'è un ritorno, veramente io attendevo... non avevo neanche il coraggio più di chiamarla, di scriverle. È la nostra Aurorina Lussana, l'Aurora. L'Aurora, come stai Aurora? No, scusa, ho sbagliato la domanda. Come sta la Padanina, la nostra Benedetta? Di nome di fatto, Benedetta, di nome di fatto. Sta bene? Dorme? No, allora, ho fatto la poppata delle 5. Sì, tutto però, a posto? Però, siccome faccio l'allattamento esclusivo da richiesta, qui ragazzi, se si sveglia io interrompo. Sì, sì, ma guarda, se vuoi svegliarla anche così ci fai sentire la voce, dalle un colpettino. Dalle un colpettino sull'elmo padano che avrà. Ma c'ha il cappellino o l'elmo, ti sono o l'elmo mancata, padano? Milan, ti sono i miei saluti padani, ti sono mancati, caro Milan. Tantissimo. Saluto te e il direttore, l'Umberto. L'Umberto, che è un nome che mi piace, lo sai. Buongiorno Aurora, congratulazioni. Sì. Qua siamo oggi a Cantù, fascia pedemontana, 14 gradi. Bene, bene. Si prospetta una bella giornata qua. Bene, ottimo. Allora apriamo il Parlamento, se c'è anche Aurora Lussana è tornata alla grande. Cara ragazzi, Aurora, se però se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Senta, abbiamo rifatto la sigla del Parlamento dalla Bosca e abbiamo messo Renzi, così sei un po' più serena. Mi sei mancata effettivamente, ma sei mancata alle persone qua che chiedevano dove è finita l'Aurora, dove è finita l'Aurora. Sì, c'ho dei tre ascoltatori che mi hanno ripreso, hanno detto come mai non vai più dal Milan e insomma ho spiegato che c'avevo la bimba da allattare. Però insomma mi hanno detto si può rispondere al telefono anche quando si allatta, perché giustamente no, si risponde comunque al telefono anche quando si fa il maternage. Tu sai che abbiamo scelto questa soluzione qui, no, perché la bimba la che a richiesta sta in meticcia, ovviamente. Meticcia in che senso? No, nel senso che è mezza lariana e mezza aerobica. Ah certo, certo. Ecco. Però sì, devo dire che è un incrocio devastante, per un cioè perché lei è di traduciamo per anche chi sta sotto il papà magari è il Molteni di Cantù, che Cantù, vabbè, il papà di è l'Ariano, Alta Brianza. Sì. Io sono delle valli orobiche bergamasche e quindi però vabbè, insomma una lombarda doc, il DNA sì, DNA però effettivamente Brindania non si sono azzardati con questo incrocio un po', insomma, multiculturale, multiraziale, uno scontro di civiltà uno scontro di civiltà in casa. Insomma un po' il mainstreaming, visto che alla fine anch'io mi sono un po' adeguata al pensiero dominante del meticciato. Eccolo qua. Però adesso stai già imparando il ponzio e quindi devo dire subito agli ascoltatori: state buoni, Carlo, calmi, gli inviti Aurora allattami, calmi, no, perché qui ragazzi bisogna stare calmi, cari ascoltatori. No vabbè, un latte umano, no, scusami no, ma tu non replicare su questa cosa, no, lascia, non ci sono più le quote, no Milan, non c'è più il regime delle quote latte, lo sai, quindi sì, va bene può produrre quello che si vuole. Niente, i nostri ascoltatori si sono svegliati così, posso anch'io dico vabbè, dai, andiamo oltre, andiamo al ponte, caro Brindani. Ieri dovevi rifare tutta la copertina, ti ha spiazzato Renzi con questa sì, cosa. Sì, totalmente, però sai, devo dire una cosa, che mi sto convincendo con gli anni, sì? Che sto ponte, ma facciamo. Alla fine, no? Almeno non se ne parli più. Non ne posso più, sono 50 anni che se ne parla. E poi, adesso parlando per un secondo seriamente, questa maledetta cultura del no a tutto comincia a starmi un po' sui cabasisi, come si dice a Bolzano. Sì, facciamo sto ponte, stiamo attenti che non rubino, mettiamoci Cantone a sorvegliare, certo. E alla fine poi faremo anche l'autostrada da Messina a Palermo, perché quello è l'altro alibi, no? Poi arriva e le ferrovie magari, e le ferrovie, insomma, ma facciamo qualcosa, no, le Olimpiadi, no, il ponte, no, senti, tutto. Senti qua, la padana che dovrà pagare no, soldi no, a me serve ponte. Che no, a me serve che finiscano la pedemontana. Ecco. Ti ha messo no, di ragazzi. Pietro, ti ha messo di... No, sai che sapete che hanno messo... No, perché da Cantù vado a Malpensa, che il Marone ha fatto la pedemontana, sì? In un attimo siamo... Mi serve che mi finisca la pedemontana di là, da Cantù verso Bergamo. Sì, sapete che le hanno messo Di Pietro, presidente della pedemontana. Ma che Però l'hanno fatta, no? L'hanno fatta. Vabbè. E poi la statale Regina, quella per andare su per il lago di Como, quella lì me la devono fare perché è un macello, sennò questa... ora che arrivi il suo menaggio... No, ma questa è la filosofia... caro Brindani, ma questa è una filosofia diffusa del... Anche oggi ne scrive Michele Serra, dice: quando mi sistemeranno la statale 412 in provincia di Piacenza, che è tutta buche, allora potremo fare anche il ponte. Vedi? Sì, è il contrario di non nel mio giardino, anzi, prima di tutto nel mio Prima di tutto... Sistematemi il giardino. Brava, prima di tutto nel mio giardino. Ecco, io... Yes in my backyard, la soprannomineremo così. Sì, nel mio giardino. Ma non ho capito perché rimuovi questa dimensione ancestrale del maternage e hai liquidato la dimensione dell'allattamento così come qualcosa inquietava. Ma io non ho liquidato, ho liquidato gli ascoltatori maleducati che chiedevano... Ma siamo conosciuti ai tempi, parlavamo di amore ancestrale, orgiastico, panico, adesso che finalmente c'è il frutto di questo amore, te sei un po' così... Ma scusa, ma c'erano gli ascoltatori che chiedevano di essere allattati? No, Milan, c'è qualcosa di non risolto, guarda che è una roba straordinaria, ecco. No, non lo so, ti vedo un po', vabbè. No, vabbè, pensa al ponte, no, vabbè. Hai degli ascoltatori bravi e reattivi, che sicuramente hanno un cervello primordiale più sviluppato del mio. No, anche senza primordiale, sicuramente. Milan, sei tutta corteccia e stai rimuovendo il cervello primordiale, stai attento. Brindani, aiutami un attimo, io sono corteccia. Allora. Gli ascoltatori hanno chiesto di essere illuminati da noi, non allattati. No, esatto, effettivamente. No, nel senso, però tu... effettivamente. No, vabbè, parla del tuo ponte, parla del tuo... Ma no, vabbè, dai, faccio parlare Beppe Grillo del ponte, da uno spettacolo di Beppe Grillo, eccolo qua. Non si può unire la Calabria con la Sicilia, porca... Potremo unire quando la Sicilia sarà come la Svizzera, la Calabria sarà come l'Austria, allora perfetto. Ma non sei tu, si stanno sui coglioni da 1 milione di anni. Uno dice la minga del ponte, l'altro dice, ti ho detto questo cazzo, non metto il ponte, non faccio questo. Uno ispira, l'altro ispira. Vabbè, insomma, questo è Beppe Grillo. La corrida 5 stelle. La corrida 5 stelle. Senti, ma non facciamo gli auguri a Berlusconi. E a Bersani, ma certo, ma come no? Bersani. Silvio Berlusconi, 80 anni, Bersani non so quanti, ma sicuramente 65, molti meno. 65, ecco, vedi, il nostro. E che auguri vuoi fare? Oggi sui giornali è tutto un elenco di ricordi. Questa è la notizia, però. Il Corriere della Sera dice che domani Berlusconi parte e va negli Stati Uniti. Mistero su questo viaggio. Non lo so, c'è chi dice per la TV, c'è chi dice per questioni di salute. Brindani, dici tutto te che lo sai. No, purtroppo sono stato vincolato al segreto. So tutto, ma non posso rivelare. Ma nel prossimo numero di oggi noi scopriremo tutto. Hanno fatto anche il patto della candelina, hai visto? Il patto della candelina, si sono andati Salvini, Meloni e Berlusconi. C'era una mamma, una neomamma, che non era Aurora Lussana, ma Giorgia Meloni. Si è mossa in treno. Si è mossa in treno. Che dobbiamo dire di altro? Non lo so. Il patto della candelina, tutti uniti per il no al referendum. Se Renzi viene... bocciata nelle urne, scusate, no, ti sei incriccata. Sì. No, comunque, scusa, 10 giorni fa compiuto gli anni anche l'Umberto, Oh mamma mia, ragazzi, 75 anni, che non è Umberto Brindani, ma no. l'unico Umberto che conta. No, però la questione del ponte, tanto tra 2 giorni verrà chiusa, vogliamo sentire Renzi come convintamente sosteneva il ponte quando ha fatto le primarie nel 2012? Oggi leggevo che nel governo è ripartita la discussione se mettere o no 8.5 miliardi di euro per il ponte di Messina. Ma li mettono nelle nostre scuole gli 8 miliardi che devono mettere? Li mettono per un'edilizia scolastica che non è degna di un paese civile? Li mettono sulle cose concrete anziché sui grandi progetti faraonici? I grandi progetti faraonici. Bravo, hai tirato fuori una cosa interessante. Vabbè, ma dai, ma ragazzi, ma... No, ringrazio Lorenzo Nespoli che l'ha scovata, ma... Ma è così, caro direttore. Cioè, ma è la coerenza che manca a tutti, ma voglio dire, non è una novità, insomma. Quindi io non mi stupisco neanche più. Fra 2 mesi potrebbe dire l'esatto contrario, ma chiunque di loro, insomma. Quindi conta quello che viene detto giorno per giorno. In questo momento dice facciamo il ponte e vediamo se è l'ennesimo buttaggio. Ragazzi, però qua bisogna avere anche un minimo di strategia, eh? Non è che si può... Ma per carità, uno può cambiare idea, peraltro, il politico può cambiare idea. Se andiamo a vedere i politici, tutti in questi 20 anni hanno detto tutto il contrario di tutto. Non è che la coerenza... Uno cambiare idea è legittimo. Però, sinceramente, non credo che questa cosa... Ma i siciliani lo vogliono i ponti, Calabria. Non lo so. Oggi avremo il sindaco di Messina, lui credo di no, l'abbiamo sentito anche in apertura, era ieri da Paola Saluzzi, non credo proprio che lo voglia. Ma insomma, cioè, dice, fare un bel referendum. Ancora questa storia, le Olimpiadi referendum, il ponte referendum, tu vorresti... Ma poi il referendum tra chi? Tra gli abitanti di Messina e Reggio Calabria? O tutti i siciliani, i calabresi? Tra la popolazione italiana, sono cose ridicole, insomma. Sì, effettivamente. Sta di fatto che noi stiamo spendendo un sacco di soldi, anche senza aver fatto il ponte, centinaia di milioni, e quindi insomma mettiamoli a frutto questi soldi, altrimenti tocca pagare 350 milioni lo stesso senza avere niente. Né il ponte, né nient'altro. Vabbè. Questo mi sembra veramente assurdo. Questo sì, ci sono contenziosi aperti, contenziosi legali. Alla fine mi sa che non avremo il ponte, ma dovremo cacciare un po' di soldi per pagare tutto questo. Allora, però, io devo andare a dare le informazioni sul traffico. Siamo con il direttore di oggi, Umberto Brindani, con Aurorina Lussana. Benedetta, è tutto a posto? Dorme? Oh, dorme. Dalle una gomitatina sul piedino. Da te la gomitata. Sul piedino. In genere lo faccio, dico a Paola Saluzzi, così di farlo con il gatto, così sentiamo. Tu facci sentire un po' come... Dai. No, la sala dormì. Dai, andiamo al traffico, poi vorrò chiedere qualcosa su Roma, perché ci sono ancora grandi novità. E Aurora Lussana, in questo suo periodo di maternage, giusto, si dice così, ha scritto un tweet, lei non se lo ricorda neanche, ma geniale, tipo 2 mesi fa io ho riso per mezz'ora, ovviamente poi l'ho presa per quella che è una matta, ma tra poco sveleremo tutto. Alino, dai, fanno il balabio, manda il traffico. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Io non ci credo, stiamo ancora parlando del ponte. Sono 16 anni ormai che ce la menate con questo ponte. Basta, o lo fate o non lo fate, ma non ne parlate più. Cara Alessandro, ce l'abbiamo fatta. Qualunque mente, un ponte di Pilu. Oh Maria, sono Anacleto, stai a sentire. Io ti mando un libro con tutti i dialetti della Val di Nevole. Con questo libro qui te ci fai 2 anni di trasmissione. Ciao, stasera vuoi cena fuori, stasera si gode. Ciao. About my history, neck. Don't know much about my biology. Innanzitutto le sfide sui soldi, perché chi ruba i soldi presi su San Gennaro porta molto male per chi ha rubato, quindi è proprio una brutta cosa. Cioè, non so se vi rendete conto, il sindaco di Napoli De Magistris, siccome hanno rubato i soldi a San Gennaro, cioè non è che da ex magistrato denuncia il grave reato. No, dice, guardate che porta male rubare i soldi a San Gennaro. Ma ragazzi, ma dove siamo finiti? Ma ancora a credere a ste cose? Mamma. È il modo migliore per farsi restituire, forse. Esatto, tutto, esatto. Adesso pare che anche siano andate avanti. La maledizione ricada sui ladri. Oh, ma cioè siamo ridotti così, cioè. Vabbè, ma rispetta le tradizioni del popolo napoletano. Ma io le rispetto, tantissimo. Proprio te, poi. Allora, il tweet di Aurora Lussana. Roma, casini, disastri, giunta. E un giorno Aurora Lussana se ne esce così. E pensare che se ci fosse stata la secessione, tutti sti casini sarebbero stati 3 righe nelle pagine degli esteri. Ma geniale! Vabbè, righe! Sai quando leggi direttore, il trafiletto di quello che succede in Austria? 3 righe! No, bellissimo questo. 3 righe nelle pagine degli esteri. No, vabbè, no, ma ancora carità, io leggo anche la politica estera dello Zimbabwe, nel senso, non è che la... cioè, voglio dire... Ma Aurora, la secessione, ma cresci, basta, adesso hai una padanina anche da crescere, su. Sì, sì, ti ho detto che le sto già insegnando il Leponzio e la ragazza la cresce bene. La cresce bene, sì, ecco. Sì, sì, credi ancora alla secessione, al potere della secessione? Alla ma in Europa negli ultimi decenni ci sono state secessioni pacifiche, consensuali, sono nati nuovi... Tipo? Nuovi stati indipendenti, la Catalogna è un esempio di un paese che va verso la secessione, la Scozia. Il diritto internazionale di secedere è riconosciuto dal 74 nel Trattato di Helsinki. Non so, secondo me il diritto di secedere è un diritto connaturale dei popoli, no? Esiste anche il divorzio fra gli esseri umani, è pure un sacramento, il matrimonio. C'è la separazione consensuale dei popoli. Ma Brindani, io pensavo fosse un tweet così, ma no, invece ci crede tantissimo. È serissima, aiuto. È serissima. No, sono gli ormoni, la prolattina, tranquilli. È serissima. Parlando seriamente. No, ma infatti, pensavo si fosse limitata a un tweet così, un po' magari quel giorno Benedetta non aveva mangiato abbastanza, era innervosita, invece ci crede tantissimo. No, vabbè, c'era un percorso storico di autonomia, di che c'è ancora, perché tu sai che Lombardia e Veneto... hanno ma non ne parla scelto neanche, una via di autonomia. Non ne parla neanche più Salvini, niente, Aurora, neanche Salvini. Niente, ma lei sta per l'Umberto, non hai capito, lei sta per l'Umberto. Ah, certo, è vero. No, vabbè, Roma è conciata così non certo per colpa di noi lombardi, comunque. Certo, a Roma, ecco, a Roma, no, vorrei adesso un parere davvero su quello che sta succedendo, anche da osservatori. Direttore, dimmi qualcosa. Oggi la notizia è che anche il ragioniere generale di Roma, si chiama Fermante, se n'è andato. Ha mandato una relazione alla Raggi, ha detto questa città, pare di capire, sull'orlo di un default. Me ne vado. Bravo. Certo, non per quelli che sono arrivati adesso, per i debiti, eccetera, ma... Che succede lì, Brindani, a Roma? Guarda che stiamo scherzando col fuoco, mi sa. No, ma ormai siamo oltre la tragicommedia. Tra l'altro, la cosa fastidiosa è che ogni volta che se ne parla, se ne scrive, io stesso l'ho scritto sul mio giornale, si hanno le reazioni inviperite di grillini, elettori grillini, eccetera, Renziano, eccetera. Però alla fine, ragazzi, bisogna rendersi conto che lì sta succedendo il finimondo, cioè 100 giorni, 4 mesi, non riescono a trovare un poveraccio che faccia l'assessore al bilancio. Cioè, ma com'è possibile? Quell'altra a Torino ha fatto tutto in 3 giorni, ha messo a posto tutto, quindi non è neanche un problema di Movimento 5 Stelle o non Movimento 5 Stelle, è proprio un problema che riguarda la signora Raggi. Sì. E tutto quello che c'è attorno, il mondo da cui viene, i suoi referenti, questa Muraro, questo Marra, qui è veramente un casino pazzesco, un casino. Io non lo so. Era già un casino quando è arrivata e si sono divisi, dai, diciamolo chiaramente, sono un po' divisi. Quello che ha detto Tutino, l'ultimo, il penultimo. Divisi per bande, adesso questo non lo so se sono divisi per bande, però certamente si vedono delle dichiarazioni, come dire, un po' contrastanti. Grillo ha intimato a tutti di stare zitti, quindi questo è un segnale. Infatti. Ma so che è il momento in cui mi chiedete, come sempre, il Brunetta del giorno, perché non vi posso... arrabbiato ieri. Si è arrabbiato con Maria Teresa Neri, giornalista del Corriere della Sera, per alcuni Aida di Matteo Renzi, un po'. Altro che Aida, è giornalista rispettabilissima del Corriere della Sera, tutti i giorni scrive, riporta le notizie, è piena di notizie, che volete, dai. Esatto, ma infatti, comunque, Brunetta verso la Meli, sentite. Io sto dalla parte degli ambulanti. Stiamo parlando di Berlusconi e contro anche la Meli, Brunetta, che non fa il suo il mestiere. Il governo Berlusconi. Faccia il suo mestiere di giornalista. E lei non faccia il suo mestiere di politico. Non di portavoce di Renzi. Come sta facendo adesso. La Meli, che è cattivissima. No, lei è una buffona. Lei è una buffona incapace. Ha sentito Renzi, buffone, cattivissima. Da Brindani, tu che la conosci, è cattivissima. Il bello è che credo che lui abbia denunciato lei. Denunciato? Ma dopo questa cosa? È vero.